Christian Chesneau e Georges Malbruno dovevano essere liberati venerdì scorso. A condurre le operazioni, l'ultimo arrivato, Didier Julien, un deputato UMP per iniziativa personale, non autorizzata, e che ha avuto il pregio di complicare ulteriormente la contrattazione. L'Eliseo e l'opposizione condannano la cosiddetta missione Julien, la diplomazia parallela condotta a Damasco e di cui nessuno capisce le ragioni. Le contrattazioni per la liberazione di Chesneau e Malbruno durano ormai da un mese e mezzo. Senza sosta, il governo francese era riuscito a costruire una traballante comunicazione con i rapitori attraverso uno sterminato numero di intermediari. Didier Julien ha 70 anni ed è un politico di lungo corso. Da 2 anni a questa parte è membro di più gruppi di amicizia franco-irachena, tutt'altro che neutrali. Propendono per il sostegno a Siria, Libia, Palestina, Iran e Arabia Saudita. Nel 2002 si trova in Iraq insieme ad altri 2 deputati UMP, Thierry Mariani e Eric Diar, esattamente nel momento in cui Bush avrebbe dovuto pronunciare un discorso sulla situazione irachena alle Nazioni Unite e mettono in imbarazzo il presidente Chirac. Piuttosto indicativa la storia raccontata sulle Figaro da Charles Ambruschini, che viene contattato il 2 settembre da Serge Quaglienbaum, segretario generale del Congresso ebreo europeo, e lo prega di incontrare Mustafa Aziz, un uomo d'affari saudita che ritiene di poter liberare Malbruno e Chesneau. L'incontro avviene a Parigi, presente anche Quaglienbaum. Aziz si presenta con un biglietto da visita UNESCO che recita consigliere diplomatico della Costa d'Avorio presso l'UNESCO. Secondo informazioni dello stesso Lambruschini, però, si tratterebbe di un commerciante d'armi, probabilmente di origini marocchine. Aziz dice di parlare a nome di Moucher Abdelkarim al-Karbit, sceicco dei Idlim, una delle tribù più potenti del triangolo sunnita, e afferma di essere capace di procurarsi la liberazione dei 2 giornalisti. Invita Lambruschini ad andare in Giordania per perfezionare la contrattazione e gli mette a disposizione un aereo a partire da Basilea, promettendo che i rapiti sarebbero stati liberati sulla frontiera giordano-siriana entro 48 ore. La sola condizione, il mandato ufficiale a trattare rilasciato dal governo francese. Lambruschini trasmette il messaggio al Ministero dell'Interno, che però non risponde. Aziz lo contatta diverse volte durante il mese di settembre, spiegando che la liberazione sarebbe ritardata dall'incompetenza dell'Eliseo, che si lascerebbe manipolare da una banda di avventurieri. Ad ogni contatto Lambruschini avverte le autorità francesi. Questa storia consente un accesso alla filigrana del rapimento in Iraq e soprattutto al profilo e agli interessi degli intermediari. Il rapito e i rapitori sono un corpo nascosto, quasi estraneo al contesto, hanno l'obbligo di moltiplicare gli intermediari e la loro estraneità all'azione impedisce spesso anche a loro di sapere di chi fidarsi e di chi non fidarsi. Gli intermediari possono poi moltiplicare all'infinito la loro mediazione, sia per rendere più difficile la localizzazione dei rapiti, che per rendere più indispensabile la mediazione che a questo punto diventa una merce vendibile a scopo politico, in cui all'improvviso si crea il miraggio di un improbabile triangolo di collaborazione tra Siria, Costa d'Avorio e Israele, in cui è difficile riconoscere gli interessi di ognuno e soprattutto impossibile verificare la veridicità. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.